Io dico subito una cosa così che mi viene in tutto il tuo discorso, per dritto e per traverso, hai insistito sull'importanza della relazione, no? Relazione con Dio, ma nel caso della comunità ecclesiale forse ancora di più relazione tra di noi. Allora, uno dei problemi, una cosa che mi fa problema in generale, è che mi sembra, ma un po' l'hai toccato anche tu questo tema, è che quando diciamo chiesa ci si è, in qualche modo, ci è arrivata un'immagine di una sorta di recinto, lo uso delle, scusate se parlo così molto in soldoni, di recinto che ha un confine, ci sono quelli che stanno dentro, quelli che stanno fuori, no? E sono tenuti insieme dal recinto, in un certo senso, più che dal, mentre la relazione fa pensare più a una forza, a una specie di magnetismo interno che tiene insieme, non perché ci sia una barriera che ti impedisce di andare fuori, che se vai fuori peggio per te, ma è una forza di attrazione, no? Reciproca, che tiene insieme come dei magneti che stanno insieme, mentre il recinto fa pensare appunto alle pecore che stanno dentro, e cerchiamo di tenerle bene strette perché sennò che non riescano a scappare possibilmente. E la storia del recinto crea problemi perché c'è un dentro un fuori, c'è addirittura ai nostri tempi, ai vecchi tempi, quelli che stanno dentro si salvano, quelli che stanno fuori se la vedranno loro, però insomma non è che sono messi mica tanto bene. E al massimo la missione era andare a acchiappare qualcuno fuori per portarlo dentro il recinto sempre. Adesso un pochino ci si è smontata questa, non so quanto in giro, però almeno per noi penso, questa idea di questa recinzione ci si è un po', ce la siamo un po' tolta, almeno in parte, e però nasce un po' il problema di capire cosa vuol dire per quelli che comunque sono in qualche modo, sia pure in modo diverso, fanno parte di quella che noi chiamiamo Chiesa, e quelli che non ne fanno parte. Come in un certo senso la teoria del recinto era chiara, l'altra è meno, è giustamente meno chiara, però in qualche modo non so se vada chiarita. Io adesso perché ho le idee abbastanza confuse, quindi dico confusamente perché chiaramente la confusione nasce dalle idee, non tanto dall'incapacità, anche dall'incapacità di parlare, ma soprattutto dalle idee non chiare. Io sento, dico proprio una mia sensazione, ho come l'idea, cercavo di dirlo stamattina ad Andrea, che sembra cambia un po' discorso, ma in realtà è sempre questo, che abbiamo un po', ci sia un po' l'idea che ci sono tante religioni, no? Ci sono i musulmani, ci sono, che ne so, gli induisti, ci sono della pesca, no? E sono tante robe, e ci sono i cristiani, poi ancora i cattolici, vabbè, comunque ci sono i cristiani, sono una delle robe delle religioni. La mia sensazione sviluppata in questi anni è che il cristianesimo non dovrebbe prestarsi troppo bene ad essere un recinto fra tanti, no? Perché ce ne sono tanti, ognuno ha le sue caratteristiche. Il cristianesimo, ho un po' sviluppato l'impressione che dovrebbe avere un modo diverso, proprio perché non è, secondo me, un recinto, è qualcosa di molto più aperto, non so, meno più in comunicazione con tante altre esperienze, anche di non credenti, fra l'altro, no? E E a me sembra di poter potermi relazionare, ad esempio, con un, magari non so se dall'altra parte sarebbe lo stesso, ma da parte mia sì, con una persona musulmana, per esempio, senza troppi problemi, rispettandone certe caratteristiche, vabbè, che non sono le mie, quindi un linguaggio diverso, un modo diverso, certe idee che anche non condivido tanto, ma comunque un suo modo di però mi sembra di non essere di un'altra categoria, non so come dire. Cioè, va bene, ho qualcosa da dire, sento di poter comunicare con te qualche cosa, se hai voglia di sentirlo, se non ho, ma non per convertirti, cioè mi va bene, tu fai pure il tuo modo, non so, non mi disturba. Mi sembra di avere però qualcosa di prezioso che forse non so quanto tu abbia ben presente. Tu hai presente un Dio misericordioso, però misericordioso forse solo per se tu sei così obbediente, se sei... Io potrei dirti, ma poi tu fanne cosa vuoi, a un Dio veramente misericordioso con tutti, per cui tutti veramente siamo figli suoi e non ci sono i figli di serie A e i figli di serie B e quelli che non sono figli perché chissà che cosa sono. Ma, e quindi io potrei anche, se volendo, potrei anche partecipare ad alcune delle tue preghiere, non so, perché non mi sento. Certo, ho delle preghiere mie che fanno parte di una mia tradizione, ma mi vanno bene anche le tue. Mi veniva in mente, adesso poi chiudo, qualcosa del genere. Sono andata 2 anni fa a fare un viaggio in Giappone e giravamo per i templi, eccetera, e vedevo alcune cose. Ad esempio, mi è rimasta in mente, l'avevo persino fotografata, in un posto c'era un altare che sembra preciso, identico ai nostri altari, no? Tutto con i fiori, c'erano poi dei budini, delle cose così che noi avremmo della Madonna piuttosto che un'altra, però proprio preciso, identico, con la gente che andava lì a pregare, no? E dico, vabbè, e somigliano, proprio come ci cambia, vabbè, cambiamo un po' le immagini, ma è la stessa roba, no? E non so, io mi sento, per certi versi, non sopporto tanto queste cose da noi, le accetto forse molto di più da voi, però sento di poter condividere questo clima religioso che non ha, di cui so poco, il vostro non è un shintoista, poi magari non ne conosco poco, ma però una vostra attitudine, un vostro modo di relazionarvi con un Dio che chiamerete in un modo diverso, ma non mi importa, ma che poi so che è lo stesso Padre che io chiamo così, e mi sento tranquillamente... potrei imitare certi vostri gesti, mi sentirei a mio agio, non mi disturberebbe, non so, non... scusate, questo è proprio un discorso più pasticciato di così non poteva essere, ma per dire questo sconfinamento, non so bene. Io posso condividervi un'esperienza di 15 anni fa più o meno, quando lavoravo ancora come traduttore e ho fatto una conferenza a più voci, in cui in realtà era una conferenza di sensibilizzazione sindacale, quindi voglio dire, il tema era quello, nel campo della traduzione, siamo intervenuti in 4-5, ci conoscevamo dagli scambi online, finisce questa tavola rotonda, c'è la Maria Biavasco che si avvicina e mi dice, tu sei credente? Dunque, che c'entra? E poi penso di sì, tu come lo sai? No, ma io sono buddista ho proprio percepito che c'era comunque uno sguardo sul mondo del lavoro che era diverso. Di questioni personali, spirituali, assolutamente non si era parlato, quindi non sapevano cosa avessi fatto prima, cosa facessi, eccetera. E mi sono trovato in questi anni, da questi ultimi, da insegnante, a confrontarmi a volte con rare, però ce n'ho 3 o 4 esperienze, magari di studenti che non si avvalgono perché non sono cristiani, pensano che questo sia il discrimine, ma con sensibilità spirituali vere, con i quali poi in realtà entriamo in dialogo e diventa estremamente interessante. Io credo che, la ridico di nuovo in termini cattivi, ma che sono quelli che dico in altri contesti, se Dio non ci serve, non abbiamo bisogno. Cioè, nella mia vita io dedico tempo, spazio alle esperienze che in qualche modo mi costruiscono, o in cui magari posso essere anche utile io, anche se quelle alla fine costruiscono anche me, quindi non è detto che il discorso sia un altro. Se questa interpretazione del mondo, che mi pare suggestiva, affascinante e auspicabile, per dire così, è fondata, ha senso che io me ne occupi nella misura in cui mi dà da vivere. Mi dà da vivere in che direzione? Io credo che nel cristianesimo moltissimo vada in questa direzione di costruzione di un'umanità piena. E l'obiettivo è quello, non è stabilire chi è dei nostri e chi è degli altri. Appunto, il Vangelo stesso che lo dice. E da quel punto di vista, se non fa bene alla crescita nostra umana, mi viene da dire è inutile, è meglio starne alla larga. E se fa bene, il mio discorso si presta a dire non fa niente se sia vero o no, non è questo che dico, anche perché non lo penso. Penso che non abbiamo garanzie e prove, penso che il discorso si muova esattamente a livello della interpretazione delle relazioni personali. Credo che le persone interagiscano perché hanno delle utilità, delle convenienze, o perché la generosità autentica, l'amore autentico esistono. Io dal punto di vista di prove riesco a trovarle in entrambe le direzioni. Non ho la prova, non posso avercela la prova che l'amore e la generosità autentica nell'umanità esistano e che non sia tutto interesse. Però tra le interpretazioni possibili, onestamente, mi pare che questa che va nella direzione del dire no, c'è del vero, c'è dell'autentico, è davvero così, non ho prove, ma è quella che in qualche modo mi seduce, mi affascina, mi convince di più. E posso provare a sperimentare che sia vera solo nella misura in cui le do ragione. Io non posso sperimentare l'amore se non credo che sia possibile, perché lo interpreterò in un altro modo, dirò che è altro. Posso sperimentare che davvero c'è un sentimento di dono di sé autentico, gratuito, che ti gratifica e che ti fa sentire pieno, se a questo do spazio, se scommetto, se lo vivo. Ho detto, ma potrebbe essere un inganno? Potrebbe esserlo, ma se non gli do spazio, non esiste. Allora, e ritorno alla tua domanda, in realtà credo che sia questo lo sviluppo che il nostro cristianesimo, il nostro cattolicesimo, che è quello che abbiamo tra mano, sia veramente chiamato a fare. Io sono anche in giri in cui ci sono riflessioni su una specie di altro altra spiritualità non religiosa, oltre il religioso, oltre le religioni, mi lasciano abbastanza freddo a me, perché mi sembra che se perdo questa dimensione personale io ho perso moltissimo. Nell'umanità io riconosco che lì è il contesto in cui succedono le cose autentiche, dove ci sono relazioni. Un trascendente che non sia relazione personale non mi convince, ma questioni mie. La cosa che invece penso che sia da fare è veramente conquistarci, costruirci un cristianesimo che non ragioni più in termini di mura, di recinti, in termini di mura, di recinti, di barriere, di, dei nostri o non dei nostri. E mi trovo confortato a scoprire che nel Vangelo anche, cioè alla fine non è un oltre, è un tornare sempre alle origini, alla fine. Nella misura in cui ci riavviciniamo all'origine, troviamo l'autenticità anche del nuovo che abbiamo davanti. È un po' l'esperienza di Isaia, che la fedeltà autentica e l'affidabilità piena del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel sentirsi dire faccio una cosa nuova, ma sono sempre io. Penso, ma più che tutto penso che questo esca dalla Bibbia. Cioè che è lì, non è oltre, che il Vangelo è nettissimo, cioè non so come si possa piegare il Vangelo a dire una cosa diversa. Nel Vangelo quelle che fanno le figure più barbine e che più vengono rimproverate sono i discepoli. E se la giocano quasi alla pari con i farisei, che sono quelli convinti di essere i giusti, i puri, che hanno i confini rigorosi. Ma anche con un fariseo, nel Vangelo di Luca, che invita Gesù a pranzo e poi gli arriva la peccatrice che si mette sotto il tavolo, proprio non era il tavolo, ai piedi, a piangergli, a asciugargli i capelli, eccetera, non gli dice, guarda che tu la stai giudicando, però sei proprio in errore. Dice, Simone, devo dirti una cosa. C'era uno che aveva due debitori, uno che gli doveva 100 denari e uno che gli doveva 10.000 talenti, non sono 10.000, fa niente, mi ricordo più la cifra. Decide di condonare, secondo te, a chi gli vorrà più bene? Che è un recuperare, e fa la parabola, cioè cerca non di sgridare Simone il fariseo, ma di provare a convincerlo, persino col fariseo, e tanto c'è a tavola. Cioè, non ci sono confini che Gesù, c'è il dottore della legge che gli fa la domanda per metterlo alla prova. Qual è il comandamento più grande? È Gesù. Amerai, è l'altro, sì, hai ragione, è anche quest'altro. Ah, bravo, non sei lontano dal regno dei cieli. Ma come, voleva metterti in imbarazzo e tu gli fai complimenti? Sì, perché se stai al gioco, se entri in dialogo, se entri in relazione, nel Vangelo è nettissimo. Gli unici che vengono esclusi sono quelli che si rifiutano di entrare in relazione. Con che autorità fai questo? Allora, voi ditemi con che autorità il Battista faceva quello che faceva. Allora, aspetta. Se diciamo da Dio, mi dirà perché non ci avete creduto. Però se diciamo dagli uomini, questa gente... Non lo sappiamo. Rifiuti di entrare in gioco. Sai che ti dico? Neanche io te lo dico. Perché è così. Altrimenti chi si mette in gioco sempre ha la porta aperta. Sempre nel Vangelo. Non c'è uno. Partendo dalla situazione più assurda, che offra una mezza disponibilità all'incontro con Gesù, che non venga accolto. Non ce n'è uno. Se abbiamo trasformato la Chiesa in un club con quote di ingresso e selezione all'entrata, è un problema. Ma nostro. Non è il Vangelo. Non sarà più facile per i bambini che comunque adesso hanno, cioè io vedo i miei nipoti con i cinesi, con il vietnamita, con sì. cioè loro ci stanno benissimo, si abbracciano. Sì, sì, no. Anche qua a livello di battuta, però è fantastico, poi appunto arrivo con questo, noi siamo quelli intelligenti, aperti, eccetera, no? Ok. Primo elementare, primo figlio, colloqui con gli insegnanti, quindi intanto prendi anche contatto con i genitori, noi non siamo di lì, quindi non conosciamo nessuno, quindi comincia a conoscere qualcuno, scambi due parole, e poi parlava tanto di questo Matteo, che è suo amico, compagno, eccetera. Allora, arrivo a casa, tu via, ma Matteo è albanese? No, cavolo, pensavo di aver piazzato, invece no. Niente, però suo papà è albanese. Che carino. Ah, anche sua mamma. Ah, e beh, lui no, lui è cresciuto qua. E ho capito, hai ragione tu, accidenti. Hai ragione tu. È vero. Così. E da una parte, perché il male non viene tutto per nuocere, parlavamo prima con Chiara e Sergio, vogliono insistere su una serie di attività di formazione culturale alla Bibbia, perché c'è un analfabetismo religioso importante tra i ragazzi, verissimo. Però una delle conseguenze interessanti è che diciamo, quando io ero alle scuole medie, io vengo da un posto di separazione abbastanza netta, dove Camillo e Don Peppone noi lo vivevamo in prima linea, perché era così il mondo, in cui se tu eri da una parte non andavi neanche a stare a sentire quelli dell'altra, per cui basta. No, il vantaggio è che ascoltano tutti e ascoltano con un discreto spirito critico, eh? Cioè, se poi non mi convinci non ho rispetto a dirti che non mi interessa. Ma se mi convinci, non mi interessa che io di per sé sarei dall'altra parte, ma no, che importanza c'è? Quindi c'è un'apertura al discorso che a questo punto si può rifondare un po' più dalle basi, cioè non dalle 40 ore, ma da Gesù, che ci guadagniamo. Poi l'ignoranza non è mai buona, va bene. Però anche quel male lì qualche opportunità ce la apre. Cioè non sono tante cose no. Valorde. Se non esatto, esatto. Cioè, non ne sanno. Quindi meno da distruggere. Sì. Cioè meglio costruire dalla base che buttare giù o cercare di rifare una costruzione. Staccarla che è sempre più faticoso, viene meno bene. Collegandomi con quello che diceva lei, pensavo al fatto di, cioè che lei diceva che si sente abbastanza in comunione anche con persone di altre religioni, eccetera. Mi veniva in mente quello che dicevi tu stamattina riguardo al fatto che prima ancora che essere cristiani, in pratica Gesù ci porta ad essere umani. E quindi forse è quello che lei riesce a cogliere nella relazione con l'altro, che sia di una religione, di un'altra religione, di un credo o di un altro, il fatto di cogliere l'umanità. Quindi più riusciamo, secondo me, ad avanzare, ad essere umani, proprio come diceva Don Giorgio, fai come Dio, diventa umano. Ecco, quindi il nostro compito è proprio, e Gesù ci invita a far nient'altro che questo, cioè ad approfondire sempre meglio la nostra umanità, a diventare umani. E quindi più si coglie nella relazione con l'altro un livello di umanità e più ci si sente in sintonia. E quindi forse appunto non è così importante che Dio venga chiamato con un nome o con un altro nome. La cosa importante forse è proprio questa condivisione di umanità, ecco. Io almeno penso che che così si abbattono abbastanza facilmente i recinti. Stavo pensando che forse non abbiamo tutte le volte che comincia l'avvento. Io ho l'impressione che noi non abbiamo capito bene cos'è quella che chiamiamo incarnazione. Li abbiamo costruito su di tutto, ma poi alla fine questa immagine di uomo come Dio lo vuole, insomma, no? O dove c'è una presenza di Dio in piena per quanto possibile all'uomo, perché l'uomo rimane comunque sempre uomo. E che è una roba che in questo senso ci autorizza, ci legittima il rapportarci con l'umano, proprio perché la nostra unica caratteristica è che noi, per parlare a Dio, per pensare a Dio, ci rivolgiamo a un'immagine umana, anche perché essendo uomini non siamo in grado, uomini e donne, insomma, esseri umani, non abbiamo delle facoltà che non siano umane. Per cui abbiamo una traduzione di Dio in umanese ed è l'unica cosa che abbiamo di caratteristico rispetto ad altre esperienze o umane o religiose o non religiose che comunque vogliano costruire l'uomo. Abbiamo una cosa che ci aiuta, che possiamo, guarda, così, ma non è che te lo racconto, cerco di viverlo per come, siccome ce l'ho in mente, cerco di prendere quella forma ed è la cosa che posso comunicare, che può essere utile, e credo che sia utile, credo che ce ne sia, io credo che ce ne sia tremendamente bisogno, perché c'è, è vero, questa magari questa apertura, ma c'è anche tanta confusione. Io vedo i miei nipoti, mi sembrano completamente persi, cioè senza punti di riferimento, poi magari con qualche... cosa possiamo aprire? No, certo non mi posso mettere a parlare di chissà che cosa, per cercare di vivere in quella maniera lì, e poi se uno magari ti chiede ma perché cavolo vivi così, no? Allora ti dico, io c'ho in mente la foto ho un'idea che mi nasce da un'esperienza di uno particolare, che è questo qua. Se lo vuoi, te lo posso comunicare, te lo posso condividere. A me serve, poi se vedi tu se ti serve anche a te. Sempre pronti a rendere ragione della speranza che hai in noi con ogni mitezza. Comunque umanese, sappi che me lo rivendo. Se vuoi pago i diritti d'autore, ma umanese è bellissimo, me lo rivendo. E così, sì, secondo me sì. Perché tutte le volte che noi cerchiamo di dire Dio di dirlo noi, come cercando di usare il divinese, pasticciamo perché non ce l'abbiamo. In umanese per fortuna ce l'ha tradotto, abbiamo la traduzione già pronta, quindi non abbiamo bisogno di inventarci. Mi ha colpito il fatto che il Signore non parlava mai a tutto il popolo, ma parlava a un resto. E quindi, non so, parlando anche con delle mie amiche, così, allora lei ogni tanto, abbastanza sovente, dice la Chiesa, siamo sempre in meno, siamo sempre meno persone, eccetera. Io dico, ma a un certo punto bisogna, e allora come farà la Chiesa a coinvolgere altre persone? Dico, ma la Chiesa siamo noi, cioè bisogna forse sganciarci un po' dall'idea che la Chiesa sia, diciamo, questa assemblea o comunque questa riunione di persone che comunque partecipano a delle funzioni, ma che poi in realtà non traducono proprio nel concreto un modo di essere Chiesa. E quindi... il resto, a un certo punto forse bisogna che ci sganciamo dall'idea di essere in tanti, allora siamo bravi, abbiamo capito, cioè bisogna forse renderci conto che come resto cosa possiamo offrire agli altri, appunto la relazione, approfondire le relazioni che possiamo avere all'interno della Chiesa, cioè all'interno dei credenti che in questo modo possano connotare di più il fatto che ci sia una relazione autentica, perché la relazione tra le persone, anche tra i credenti, quelli che vanno in chiesa, sovente le relazioni sono molto superficiali, siamo molto superficiali, ma anche perché non c'è tempo forse di condividere più di tanto, ma trovo che sia anche salutare il fatto di pensare che i credenti debbano per certi versi essere un resto, essere una parte non così grande, che non sia così, come dire, così autentica. Se il sale ha perduto sapore, come saliamo, eccetera. Allora, cos'è che ci connota di più? Il fatto di avere una relazione autentica con altre persone. Io ho pensato questo. Penso che sia una cosa anche da approfondire, cioè vedere come ci poniamo a un certo punto anche verso gli altri, anche verso i non credenti. Io ho conosciuto delle persone, conosco delle persone che non sono credenti, ma comunque sono anche credibili, nel senso che fanno una vita di relazione buona con altre persone, sono attente, sono anche disposte a cambiare un po' certe loro sicurezze, eccetera, e quindi danno anche ad altri che credono la possibilità di capire che anche in persone che non credono ci siano degli aspetti molto buoni, forse in certi momenti più buoni di quanto possano essere i pensieri, gli atteggiamenti, i comportamenti di persone credenti. Comunque, la segretaria. No, perché c'era una segretaria nel mio circolo che non era credente. Comunque, in occasione dei suoi 35esimo anniversario del suo matrimonio, aveva pensato di festeggiare questo anniversario con una messa, perché suo marito era credente. Fatto sta che nel frattempo, tra il tempo in cui lei aveva pensato di programmare una cosa del genere, aveva scoperto che suo marito le faceva i corni, le corna, no? E allora era stata molto dispiaciuta, eccetera, eccetera. Alla fine poi è andato tutto come forse doveva andare. Comunque, lei l'aveva confessato, aveva detto: io ero disponibile a non seguire la mia idea di atea, no? Per fare un piacere a mio marito. E invece, sì, era andato tutto poi a catafascio, perché intanto il marito stava per andare con un'altra persona, eccetera. Ma mi aveva colpito questo fatto, perché una cosa così grande, così importante, e insomma comportata meglio lei. Sì, alla fine sì. Comunque. e anche adesso questo, il fatto di dire la chiesa non ha più, perché ci sono persone anziane che seguono le funzioni, non ci sono più giovani, è un problema. Io non ho avuto possibilità, non abbiamo avuto possibilità di sentire un po' l'opinione anche del nostro parroco, però nello stesso tempo forse dobbiamo cambiare un po' mentalità, pensare che, non so, io lì è una cosa molto, molto grande, molto difficile da rimediare, però nello stesso tempo è vero, anche noi qua alla tenda siamo pochi, come possiamo, io l'ho già detto ad altre persone, che magari qualcuno era venuta a sentire appunto gli incontri, a partecipare agli incontri, ma poi dopo non sono più venuti, non che siano stati dispiaciuti, che non abbiano avuto un riscontro negativo, ma sono stati un po' indifferenti, ecco, questo è il fatto che mi fa pensare. A un certo punto è difficile entrare in una relazione per cui uno dice, ma c'è proprio questo che mi può servire per diventare più, non solo cristiano, ma umano. Abbiamo, secondo me, tutte le persone hanno un loro livello, no? Di crescita. Quindi a qualcuno può fare un effetto venire qui, sente determinate cose e capisce che può averne nutrimento, no? E può aiutarlo a crescere. Altri invece che magari sono a un altro livello, gli passa tutto così un po' sopra la testa e quindi non è ancora il loro momento, chi lo sa. Noi abbiamo tutti, secondo me, un nostro ritmo, ecco, e quindi lo stesso avvenimento, le stesse parole non fanno lo stesso effetto su tutti. Ognuno cresce in umanità e quindi qualcuno poi cresce proprio poco. Ne abbiamo un esempio davanti agli occhi di tutti. Io stamattina quando parlavi degli indemoniati mi era piaciuto proprio questa interpretazione di come Gesù aveva detto agli apostoli che dovevano liberare gli indemoniaci. Il potere di liberare dai demoni. E liberare dai demoni, che però hai dato un'interpretazione che non avevo mai sentito bene prima e mi faceva proprio pensare a quella situazione che tutti conosciamo, dove davvero ci vorrebbe qualcuno capace di liberare, di intervenire. Anche se Don Molari, che ho sentito parecchie volte parlare dal vivo, una volta ha detto una cosa che non ho mai digerito bene, e cioè lui ha detto, adesso magari anche scritto su quel foglietto che abbiamo io, l'ultima parte che riguarda Molari, non l'ho ancora letta, quindi non so cosa lì ci sia scritto. Però Don Molari, fra le altre cose, ha detto che Dio non interviene, no? Ha detto che Dio non interviene. Allora, questa frase qui mi ha fatto abbastanza pensare, no? Perché così ho detto, ma scusa, se io vedo una persona che prega senza pensare a me, ma pensiamo a qualcun altro, che prega perché prega? Cosa vuol dire pregare? Cosa vuol dire pregare? Ho immaginato che uno che prega, non so, per esempio pregate perché per la guerra, no? Perché non ci sia la guerra. Allora, tu quando preghi perché non ci sia la guerra, cosa chiedi? Addio. No, io me lo sono chiesto, no? Perché a un certo punto puoi chiedere, fa Dio, fa che qualcuno metta la testa a posto, fa che, non so, gli uomini riescano a trovare, a far la pace. Ma come fa? Ma gli dico fa, e io fa? Quando prego, no, io non dico che sono io, dico uno, una persona che prega, cosa gli dice? Cosa dice a Dio quando prega? Ci sono due dimensioni in quello. Una è la... Se io continuo a pregare perché le persone si comprendano a vicenda e non rispondano alle incomprensioni con la violenza, se non sono del tutto disconnesso da me stesso, quando mi troverò in situazioni simili non potrò più reagire in modi lontani da ciò che chiedo. Cioè, in realtà la preghiera cambia me, intanto. E poi c'è su tutto ciò che effettivamente non può dipendere da noi, perché questa è già una dimensione su cui, vabbè, non dipende da me la fine della guerra in Ucraina, però la fine di tensione intorno a me c'è, certo che dipende da me. Ed è in piccolo situato qui quello che poi si può ricreare in grande, e se costruisco intanto intorno a me un'umanità che sa non reagire con violenza e con sopraffazione, eccetera, questo alla lunga porta effetti anche intorno a me. Ma ci sono delle preghiere che hanno come oggetto cose che davvero non dipendono da noi, malattie, situazioni che sono troppo... E lì in fondo credo che il valore sia di nuovo quello relazionale. Io sono questioni che mi stanno a cuore, che mi pesano, che condivido con i miei amici. Perché? Cosa ci possono fare? Non ci possono fare niente, ma mi stanno ad ascoltare, mi stanno vicini. E questa dimensione del non essere soli è significativa. Un Dio che rispondesse alle preghiere cambiando la storia dimostrerebbe che non si fida di noi e che ci tratta da minorenni. Perché interverrebbe come il gestore di una storia dalla quale invece ha scelto di ritirarsi perché fosse affidata a noi, sapendo che ad essere liberi non siamo solo noi ma è anche la natura. Un Dio così indubbiamente avrebbe tutti poi d'accordo con lui, tutti fedeli eccetera, ma semplicemente perché non avresti alternativa. E se al cuore hai di farti servire, va benissimo. Se al cuore hai la relazione, non va bene. In una relazione io desidero che l'altro non se ne vada mai. Ma non perché non può andarsene, ma perché non vuole andarsene. Il mio desiderio è che possa e non voglia andarsene. Legare uno perché stia sempre con me non è relazione. È la negazione. E un Dio che punisse i comportamenti sbagliati, che intervenisse ad aggiustare le cose, eccetera, sarebbe esattamente un Dio che non ci permetterebbe di muoverci liberamente. Ecco, però, sono d'accordo su questo ragionamento, ma pensavo sempre tra me il fatto che Gesù sia considerato un Dio incarnato, cioè che ci sia stata l'incarnazione, secondo me va contro a quella teoria che Dio non interviene, perché a me sembra che Gesù rappresenti nel mondo degli uomini un intervento. Allora, questo è un altro discorso, perché esattamente l'incarnazione si presta. Posso interpretarla come semplicemente un uomo? Sì. Pensiamo a quello che succede nella vicenda di Gesù. In che modo il Padre risponde per la vicenda sua? Prendiamo Getsemani e passione. Risponde dando la forza di andare incontro alla croce, e nel Getsemani, soprattutto in Marco, c'è quel passaggio, adesso non posso dilungarmi, ma è interessantissimo. È passato. Allora, lui prega, angosciato, chiede ai tre di svegliare con lui e non lo fanno. Alla fine si alza e dice, è passato. Se non ce l'abbiamo in testa, questo è passato, è perché non ce lo traducono così. Perché giustamente dicono, ma che c'entra il passato? Passato niente, deve ancora arrivare tutto, e ce lo traducono con basta. Allora, quella parola lì vorrebbe dire basta in greco solo nel Vangelo, solo in quel passo. Non mi convince. Di solito dico agli studenti, guardate che se dovete correggere il testo, faccio ripetizione di latino in greco ogni tanto, se dovete correggere il testo perché abbia senso, non è impossibile, ma è più probabile che vi stiate sbagliando voi. Che siate voi che non avete capito, poi non è impossibile che sia da correggere, ma è proprio l'estrema risorsa. È passato. Ma cos'è passato? Il problema, e umanamente lo capiamo benissimo appena ci mettiamo nell'ordine di idea, il problema non è andare in croce, oddio, non è piacevole, il problema è capire se conviene scappare, perché mi sono sbagliato e perché tutta questa mia illusione di essere figlio di Dio è un'illusione, e allora meglio scappare, faccio in tempo, perché se dall'Orto degli Ulivi vado verso Betania non mi beccano più e in Galilea non mi vengono a cercare. Faccio in tempo a scappare, faccio, scappo o resto qua. La tragedia umana è la decisione, e la decisione quando non siamo sicuri di che cosa sia. Se mi sono sbagliato, martirio nella storia c'è, gli uomini sanno morire da eroi. Il problema è capire se ne vale la pena. Ed è lì la risposta del padre, è passato. Sereno, da lì va incontro alla croce senza angoscia. Non senza sofferenza, evidentemente, ma senza angoscia sì. Primo modo di risposta. Non a caso Marco poi mi mette lì, il giovane nudo con solo il lenzuolo addosso che tentano di abbrancare, ma lui li lascia lì fuggendo via nudo, giovinetto, neaniskos. Cito la parola greca perché le stesse parole ritornano a manciata, 6-7 parole identiche, dopo la morte, nella resurrezione. In un Vangelino, che sono 8 versetti di Marco, dove tornano quelle parole lì. Il discorso di stamattina, i lettori antichi, anche perché tra l'altro parliamo di testi religiosi, persino noi li rileggiamo, e erano attenti a queste cose, alla prima lettura magari no, alla seconda magari no, alla terza però sì, prima o poi ti accorgevi del rimando. Quello è un anticipo della risurrezione. Il giovinetto che se ne va via lasciando lì il lenzuolo, in greco sindon, cioè è quello. È quello, è come nel sepolcro è rimasto il lenzuolo, e il corpo non c'è più, è andato via nudo, libero. Allora, il rimando alla risurrezione. Quali sono i due modi garantiti a Gesù, quindi sicuri anche per noi, che a Gesù, che a Dio, il Padre, di rispondere? La forza di vivere il momento, la croce, la forza di vivere la croce, e la garanzia che la morte non sarà l'ultima parola, la risurrezione. Ma sono due eventi che si pongono o nell'intimo della persona, per cui non verificabile, non ho la prova, è tutta un'idea tua, posso dirtelo, sì, e fuori dalla storia, io voglio vedere la prova della risurrezione, non ce l'hai. Questo fa sì che sia una risposta e sia una presenza, anche l'incarnazione, certo che è una presenza e una risposta del Padre. Ma è una presenza che io posso interpretare in altro modo, che non si impone. Tu mi dici, non mettere le dita nella presa, e io lo faccio lo stesso, non lo faccio la seconda volta, perché ho capito perché non dovevo. Ma se io ti dico, fidati e vivi rispettando gli altri, io lì la prova non ce l'ho, devo fidarmi, e anche lì devo affidarmi ad una interpretazione, e dopo 40 anni potrò dire, in fondo, era un consiglio sbagliato. oppure no. E Dio si muove in questo livello qua, che peraltro è il livello di nuovo delle cose più autentiche della nostra vita. Battuta che fa stare male i ragazzi, ma non importa, fa anche stare male noi vecchi, nelle dimensioni più fondamentali della nostra vita, di nuovo, prendo quelle relazionali, prendo il rapporto di coppia che in qualche modo è più profondo, ma non è l'unico a cui si può applicare. Io, dopo 40 anni di matrimonio, non solo, se sono onesto, non sono sicuro al 100% del fatto che l'altro mi ami, ma neanche che io ami l'altro. È spiazzante, è bruttissimo da ammettere, però è vero, anche di questo mi fido, cioè decido di scommettere su questo, perché alla fine è l'interpretazione migliore che trovo di quello che ho da sotto mano, ma ce ne sarebbero altre, potrei dire che tutto interessa, certo che posso dirlo, non ho prove, interpreto ciò che c'è, il dato. E a chi mi dicesse, guarda che l'amore non esiste, io non posso dirgli, guarda che sono 40 anni che sto con mia moglie. Chi ti dice che sia amore quello? E non ho prove. Ho indizi, ho interpretazioni. Ecco, lì è il campo della libertà. Perché io sono io lì che colgo e decido a che cosa voglio fidarmi, di che cosa voglio fidarmi, a che cosa affidarmi. In quel campo Dio interviene, sì. E quello di nuovo è un'esperienza che esistenzialmente si può aver fatto. Di quel passaggio lì io da solo non ce la facevo a farlo. Ecco. Dove hai preso la forza? Ecco, io volevo arrivare lì, allo Spirito Santo. Cioè, un rapporto io posso avere con lo Spirito Santo. E io personalmente la vedo proprio come un aiuto, una forza che mi viene donata a supportare la mia debolezza. Cioè io nel momento in cui mi rendo conto che in questa situazione non ho la forza di comportarmi come Gesù, tra virgolette, perché vengo, diciamo, urtato e quindi mi viene voglia di reagire di brutto, ecco, io penso che in quei momenti sento come l'aiuto dello Spirito Santo, come un aiuto vero, vero e concreto, cioè da toccare con mano. Però bisogna, secondo me, chiedere questo aiuto con fede, cioè crederci davvero. E crederci anche dopo, perché qualcuno potrebbe dirti, no, tutta idea tua, poi tanto alla fine la forza la trovi. No. E tu dici no, e che prove mi dai? Non ce l'ho le prove. Però nello stesso tempo. Però nello stesso tempo tu dici, no, ma io lo sento, che è mio questo. Però queste cose qui, secondo me, contrastano un po' con questa affermazione un po' troppo forse generica che Dio non interviene, cioè perché ho anche sentito una volta, eravamo sempre in un incontro in parrocchia, un incontro diciamo così vagamente di tipo religioso, nel senso che non ricordo più bene di cosa stessimo parlando, però un mio amico aveva detto perché penso che Dio abbia cose ben più importanti a cui pensare che non le mie concrete, le mie. E questa frase non mi era piaciuta, no? Cioè perché pensare a questo Dio che, detto così, mi sembrava un Dio lontano, un Dio che si disinteressa della tua vita e delle tue cose, a me non era piaciuto, no? Non gli ho detto niente quella volta lì, però poi avevo rimuginato e secondo me per avere una relazione con Dio, con Gesù specialmente, secondo me bisogna per forza, come dire, aspettarsi da Lui qualche cosa. un aiuto. Non puoi pensarlo, pensarti come un essere umano che vive la sua vita e tu sei lì con le tue difficoltà, con i tuoi problemi, con la difficoltà di relazione, e lui è là, che ha altre cose a cui più pensare. Importanti. Questa concezione proprio io non riesco a digerirla, e anzi, proprio il contrario, io ho bisogno proprio di sentire che questo Dio mi è vicino e che mi aiuta, però non posso pensarlo come indifferente, non riesco, perché altrimenti appunto c'è qualcosa che non quadra nella mia relazione. A cosa serve la mia relazione con lui? Se io non riesco a vederlo come un essere che mi ama e che quindi, se io gli chiedo aiuto, soprattutto un aiuto per camminare nella direzione da lui indicata, e lui quell'aiuto me lo dà, e io ho fiducia che lui me lo dia, altrimenti non riesco a far quadrare il cerchio. Penso che l'aiuto, certe volte ci sono, magari nel caso di una malattia, così tanta gente dice pregherò per te, pregherò per te. E naturalmente pregano il Padre Eterno che ti aiuti, che ti faccia guarire. E in quel momento magari che uno, certo, non sente, ma dice ma c'è tanta gente che prega per me, è come se mi sostenessero in questo momento. E allora questo pensiero, è vero, è la gente che prega, ma pregano per che cosa? Pregano perché credono in Dio, io a mia volta credo in Dio, e allora... Ma preghi nel senso che pregano, ma cosa, come fanno a pregare? Ognuno ha il suo. È come la fine del rosario, diciamo una preghiera per il Papa. E poi si dice l'Ave Maria. Dice tutte le domeniche. Non dimenticatevi di pregare per me. E quello lo dice sempre. Dunque, perché anche lui crede che la gente che prega per lui sia disponibile a lui. Ecco, è vero, quello che fa e quello che dice anche possa continuare. Però direttamente che ci sia un aiuto, perché prega per lui, ma perché forse le preghiere vanno su e poi tornano giù. E poi a volte fa i soldi, poi vanno su. È proprio da bambini, no? Ma siamo tutti un po' bambini. No, ma comunque questo aspetto qui per me non è facile. È abbastanza importante, ecco, cioè arrivare, perché diventa tutto una specie di travaglio, chiamiamolo così, di travaglio interno per arrivare a una risposta, no? Cioè a chiarire a me stesso in cosa voglio credere, in cosa davvero credo, com'è questo Dio in cui credo. Più che il Dio Padre, io prego sempre Gesù e lo Spirito Santo. Non Dio Padre, Dio Madre. Comunque, per arrivare ancora una volta, perché poi sono andata un po' fuori strada, all'indemoniato, applicandolo adesso alla situazione purtroppo che stiamo vivendo, che stanno vivendo per il momento, pensavo come potrebbe esserci qualcuno che libera dal demonio. Padre Artù, e anche lì appunto ci restituisce il fatto che siamo pienamente responsabili di questa storia, che se c'è chi si è arrampicato in una posizione di potere e vuole la morte di uomini, non sarà fermato da Dio. Perché se Dio lo facesse, sarebbe esattamente togliere libertà e responsabilità all'uomo. E non però è nel momento in cui uno, per esempio, chiede che lo Spirito Santo illumini la mente e il cuore di quella persona, lui non si lascia illuminare. In questo caso una sola, ma è una preghiera lecita? Certo che è lecita, ed è questa illuminazione, questa, però appunto se non c'è la disponibilità non accade nulla, e poi non troppo passa dalle singole persone ancora, da come anche gli ordini vengano recepiti, eccetera. Sapendo che è drammatico, ma è il prezzo della nostra libertà, che il male voluto non verrà bloccato da Dio. Di nuovo, perché se lo facesse ci tratterebbe da minorenni, da minorati, da gente che non può entrare in relazione alla pari con lui, che invece è il progetto della, divino in tutta la Bibbia. E quello che ha affidato agli uomini è prendersi cura anche del mondo, di evitare con intelligenza di arrivare a queste situazioni. E questa che c'è passa dalle mani di chi si mette a disposizione nell'accoglienza e nel sostegno, di chi cerca soluzioni perché questo finisca, perché questo sia recuperato un giorno, è affidato a noi. E in quello la preghiera che le menti siano illuminate è sensata, giusta. La preghiera di chi condivide che è una ingiustizia ciò che sta accadendo è giusta, è vero. Esattamente come si confida con un amico, che sai che ti ascolta, sai che dalla tua parte, anche quando non può fare nulla. Perché anche tutti questi poveracci che sono là sotto le bombe, io immagino che se pregano, ma che cosa chiederanno? E chiederanno aiuto, c'è certo, poco da fare. Certo. Chiederanno aiuto, ma allora, dico, ha senso chiedere aiuto? Ha quel senso di chissà che comunque condivide la propria angoscia e il proprio desiderio, comunque. E poi che sa che la storia non verrà cambiata, ma i cuori degli uomini lo possono fare. E invochi quello. Che cosa poi materialmente, concretamente la preghiera ottenga, se potessi rispondere a questa domanda ritorneremmo ad una libertà umana non rispettata. E potranno succedere cose di cui dirò, guarda che finalmente Dio è riuscito a piegare i cuori, oppure dirò, vabbè che c'entra, se no l'avrebbe anche fatto prima, quindi è tutta una invenzione tua. Sia sempre lì. No, perché io continuo, ogni tanto mi vengono ancora in mente delle cose, sempre tornando alla Bibbia, tornando ai racconti. Non so, per esempio, Dio che porta il suo popolo fuori dall'Egitto, nella terra promessa. Quelli vanno. Ma che iniziativa è, di Dio o dell'uomo? Dentro ad un mondo che immaginava un condizionamento più diretto di Dio sulla storia, è interessante tutta la briga che Dio si prende per convincere Mosè. Quasi a dire che se Mosè non mi dice di sì, qua non succede niente. E Dio non può fulminare Mosè cambiandogli la testa. Cerca di convincerlo. Perché fuori dalla libertà dell'uomo Dio non si muove, proprio perché non gli interessano degli schiavi, gli interessano dei compagni. E il compagno proverò a convincerlo, ma non posso costringerlo. Litigano un capitolo intero. Mosè è incredibile. Sì, perché Mosè non era tanto d'accordo. Non era d'accordo, chiaro. Non anzi, ricordo. Come... E per... Mosè balbettava, mi sembra. Anche, sì. Però no, non è stato un impedimento discutere con Dio, dirgli di no. Ricordiamoci che quel Signore manda chi vuoi mandare. Di nuovo, la traduzione letterale è quella, il senso è manda un altro. Me no. Che interessante, eh? Cioè mezz'ora che spreca tempo con te, questo che non ha certo tempo di lavoro. E alla fine dici, guarda, bel progetto, piace proprio. Quando trovi qualcuno, dimmelo. Quello che stiamo dicendo, in fondo, stavo pensando che è un po' la seconda tentazione di Gesù. Sì. Non è, Dio non passa di lì, cioè è il diavolo. Il che passa da lì. Che per cui è così, guarda, se vuoi ti do tutto, cioè, c'è niente da fare, faccio tutto me e prendi già il mondo tutto bello confezionato. Non è la strada, non è la strada di Dio. E non è la strada di Gesù, poi lui proprio peggio di così non poteva fare. E a quel punto la scommessa cristiana è che non è neanche la strada umana. Non è neanche la strada umana, perché finisce male comunque. Mm. Però Gesù, che peggio di come è finito non poteva, morto in quel modo, con tutti che se ne sono scappati, con niente, insomma, fallimento zero. Però poi, quello che diceva la preghiera di Kung, alla fine anche le cose negative della mia vita posso dire dopo che sono state rivolte al bene, cioè che Dio in qualche modo le ha rivolte, è riuscito a far venire fuori il bene da quello che è obiettivamente un male, perché non si può dire che la croce sia un bene, la croce è un male. Ed è però da questo male si è venuto, ha fruttificato, è venuto fuori la resurrezione, è venuto. E anche noi siamo qui oggi perché è successo quello lì. Ed è interessante esistenzialmente quanto poi risuoni, di nuovo io ho come referente i ragazzi, quando cerchi di far capire che questa è la strada umana, è quella di Dio, che non passa dalle scorciatoie ma passa dalla costruzione. Ma pensate un po', voi fate una camminata in montagna, arrivate in cima, che soddisfazione, il panorama, eccetera, ma scusa, vi fate scendere in elicottero, il panorama è lo stesso, no? Dici così, no, perché no? Il risultato cos'è quello? Tu mi hai parlato della meta e del panorama, ce l'hai. No, però non l'ho fatto io. Alla fine poi, quella è la strada umana, perché è quella di Dio. Torniamo all'incarnazione. Se è divina quella strada, vuol dire che è anche la migliore dell'uomo. Anche se siamo tentati da altro. Ma la tentazione ci sta. Un attimo, no. Ma io non so dire le parole giuste, ma non c'è quella preghiera che Gesù ha pregato appunto nel Getsemani, e poi è andato tutto avanti così, ma e poi si dice e Dio l'ha esaudito, sì, facendolo risorgere dopo 3 giorni. E l'ha esaudito, quello ha pregato e tanto tutte le cose sono andate. Perché fosse liberato da morte, ed è stato liberato da morte. Uno potrebbe dire, io però intendevo un'altra cosa. Sì, vabbè, però stai tranquillo, sei stato liberato. E in modo più definitivo, però sì, è quello. Non so perché l'abbia esaudito a vedere in quel momento, no? Perché era quello che chiedeva di non soffrire così. Invece io con una cosa che è un altro livello, parlando di relazione, parlo di un'esperienza di ieri. Ieri sono stata una giornata di mindfulness, non so se sai cos'è, sì. Può essere un po' di tutto, no? Ecco, ma io, c'è un gruppo che si trova ogni tanto, io ero più di 2 anni che non mi trovavo. E ci si trova normalmente delle persone su un gruppo in cui ce ne sono magari 2 o 3 che conosci. Cioè, normalmente c'è sempre della gente nuova, no? C'è una guida e si fanno delle pratiche, si chiamano pratiche. non chiedetemi una definizione, no? Sono degli esercizi, delle, comunque tutte finalizzate a un ascolto interiore, diciamo così. Succede magari che venga posta una domanda prima o dopo un esercizio, normalmente prima, e che poi in funzione dell'esercizio che si è fatto possono emergere delle risposte, no? Che uno non è che le deve cercare con un percorso intellettuale di ragionamento, deve dimenticare tutto, perché poi in queste pratiche diciamo, l'obiettivo è proprio quello di lasciare andare i pensieri, lasciare andare tutto quello che disturba e stare concentrati su cose molto semplici, no? Il respiro, il corpo. E poi, non in tutti gli esercizi, ma alla fine dell'esercizio, molte volte viene richiesto di fare una condivisione, no? Si condivide qualunque cosa, no? Ovviamente sono spunti, risposte, qualche cosa che è venuta fuori durante questa pratica. E normalmente si fa il giro in un certo modo, per cui quello che vuole iniziare per primo inizia, poi si va avanti a fare tutto il giro. Se qualcuno in quel momento non se la sente di parlare, passa e poi tornerà il suo turno alla fine. E ognuno dice qualche cosa, no? Si chiama condivisione, no? Allora, a me la cosa che mi stupisce sempre quando arrivo la sera, in qualunque modo io mi sia presentato a questo incontro, come anche ieri. Ero un po' scettico perché erano 2 anni e mezzo che non partecipavo a una cosa del genere. Per cui, diciamo, un fondo di scetticismo, no? Comunque, alla fine di questi incontri si vede che si è tessuta una relazione con persone di cui conosci il nome, nient'altro, nient'altro proprio. Io non so, poi magari qualcuno dice qualche cosa di sé, per cui hai qualche elemento in più, no? E io sento che tutti, sono presi da questa cosa, lo esprimono, no? Perché poi alla fine di tutto, ecco, si può dire qualcosa, no? E si sente che si è creata questa relazione, no? Cioè, mi sembra un bel esempio, di quello che, appunto abbiamo detto, hai detto oggi, e che è la base di partenza di qualunque costruzione. Aggiungo solo una cosa, perché mi hai fatto venire in mente una roba su cui rifletto da un po' di tempo. Una cosa che mi colpisce tantissimo è la relazione che abbiamo con i bambini. Io vado al nido, no? Ma potrei fare anche lo stesso discorso anche con i miei nipoti, fra l'altro. Ma al nido, bambini da 0 a 3 anni, no? Oh, io sento una relazione fortissima con questi bambini e sento che loro ce l'hanno con me, ma loro non sanno assolutamente niente di me, mi conoscono giusto per nome, quelli più grandini perché piccolini neanche quello, eppure ho proprio non so come la percezione, ma quasi, cioè che non posso dimostrare, ma è quasi scientifica dalla tua parte, non so dal loro modo di agire, dal modo con cui ti guardano, che c'è una relazione fortissima basata su che cosa? Ma che non certamente appunto sul, come dici tu, no? Il fatto che proprio zero, non sanno niente di me, niente, ma niente, cioè mi vedono così, sono una figura con 2 occhi, vedono neanche la faccia perché adesso abbiamo la mascherina. I bambini sono bellissimi perché vedono subito, capiscono subito quando sorridi. Loro che non ce l'hanno, sorridono, se vedono dagli occhi capiscono che tu sorridi. E comunque senti che c'è una reazione veramente molto intensa, perché i piccolini hanno questa capacità anche proprio di buttarla fuori. E è basata su qualcosa di molto primordiale, non so come chiamarlo, di proprio di un... Come la mia scuola, che voglio si chiamano mamma perché naturalmente a pelle, ti viene, ti sentono a pelle. Non saprei definirla, però... E penso a volte che appunto con Dio... Noi non sappiamo niente di Dio, Lui magari sa un po' più qualcosa di noi, però è possibile una relazione anche quando ci sono questa non conoscenza. Comunque, vabbè, basiamoci sulle nostre umane che ne abbiamo già da vendere. Come si chiama quel gruppo? Ma la cosa, la pratica era mindfulness, magari quello che ho conosciuto un po'. Mindfulness, pienezza, significa consapevolezza. Abbiamo sforato l'ora. Parte di un gruppo, mai incontro. Ah, no, non conosco più. Però che bello, ragazzi, condividere un po' di cose. Siamo pochi, ma se hai fatto il tempo si fa buono. Devi ancora dire il saluto finale. Cosa? Devi ancora dire il saluto finale. Che il saluto finale lo lascio. Finiamo così. Grazie. Grazie. Buon cammino.